24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Diritti umani, il premio Sakharov parla iraniano. Il regista Jafar Panahi e l'avvocata Nasrin Sotoudeh insigniti all'unanimità del riconoscimento europeo per la libertà di pensiero. Aiuti ad Atene, mercoledì riunione straordinaria dell'Eurogruppo, si parla di altri 20-30 miliardi di euro. E Schäuble accusa i politici greci, la crisi è soltanto colpa vostra. Contro l'evasione fiscale, merci gratis se i negozi ellenici non faranno lo scontrino. Bando dei sacchetti di plastica, nuova lettera di richiamo della Commissione all'Italia. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Il regista Jafar Panahi e l'avvocata Nasrin Sotoudeh, difensori dei diritti umani in Iran, sono stati insigniti all'unanimità del premio Sakharov per la libertà di pensiero. La scelta è stata fatta dalla riunione dei capigruppo parlamentari. Nella shortlist finale delle candidature c'erano anche il gruppo femminista russo delle Pussy Riot e il bielorusso Alex Bialatsky, attivista per la difesa dei diritti umani, ora in carcere. Il premio Sakharov per la libertà di pensiero atterra in Iran dopo essere stato a lungo in questi giorni nell'orizzonte degli oppositori al governo russo. La riunione dei capigruppo parlamentari riuniti a Bruxelles ha infine indicato il regista Jafar Panahi e l'avvocato Nasrin Sotoudeh, entrambi da anni difensori dei diritti umani in Iran. La Sotoudeh, legale del Centro per i diritti di Srinabadi, sta scontando 6 anni di carcere nel penitenziario di Evin e secondo Amnesty International le viene impedito di vedere i figli perché rifiuta di indossare il chador durante le visite. Panahi, regista cinematografico, nel 2000 ha vinto il Leone d'Oro a Venezia con Il Cerchio, film corale sulla storia di 8 donne incarcerate nel suo paese. 2 anni fa è stato poi condannato a 6 anni di carcere per l'appoggio ai movimenti antiregime. Nella shortlist delle candidature al Sakharov, anche il gruppo femminista russo delle Pussy Riot ed il bielorusso Alex Bialatsky, attivista per i diritti umani attualmente in carcere a Minsk. Il premio Sakharov, 50.000 euro, è stato istituito nell'88. Nella prima edizione venne attribuito a Nelson Mandela. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Una riunione straordinaria dell'Eurogruppo dedicata alla Grecia si svolgerà mercoledì. L'appuntamento è per fare il punto della situazione tra Atene e l'Unione sui prossimi aiuti. Si sta lavorando a un'ipotesi di proroga al paese che comporterebbe l'esborso di altri 20-30 miliardi di euro. Ma il ministro tedesco delle finanze, Wolfgang Schäuble, mantiene la pressione sul governo ellenico. La colpa della situazione in Grecia, ha detto, non è di nessun altro se non della Grecia e dei politici greci. Il Ministero dello Sviluppo Ellenico presenterà una normativa in base alla quale i clienti di ristoranti, bar e altri negozi potranno andarsene senza pagare la consumazione o quanto hanno acquistato se prima non avranno ricevuto lo scontrino fiscale. Questa misura, che non ha precedenti, è stata ideata nel tentativo di ridurre l'evasione fiscale e potrebbe essere applicata già dalla prossima settimana. La Ford taglia 6.200 posti di lavoro in Europa per ridurre i costi e far fronte così alla crisi del mercato dell'auto. Le perdite della filiale europea raggiungeranno quest'anno infatti 1,5 miliardi di dollari e dovrebbero restare più o meno a questo livello anche nel 2013. Il ritorno in attivo è previsto non prima del 2015. Oltre alla chiusura della fabbrica di Genk in Belgio, cesserà l'attività anche in 2 impianti in Gran Bretagna. In quest'ultimo paese, una delle 2 sedi storiche di Ford in Europa, resterà solo la produzione di motori. I tagli, ha detto l'azienda, ridurranno la capacità produttiva del 18%, ovvero oltre 350.000 vetture in meno l'anno, e faranno risparmiare, sempre su base annua, fino a 500 milioni di dollari. Per riportare i conti in nero serviranno però anche 15 nuovi prodotti che verranno lanciati entro il 2015 e anche una ripresa del mercato europeo. Fiat intanto ha annunciato altre 2 settimane di cassa integrazione fra novembre e dicembre per lo stabilimento di Pomigliano dove si produce la Panda. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea incalza l'Italia inviandole una nuova lettera di richiamo al fine di conformarsi alla direttiva che regola l'utilizzo dei sacchetti di plastica in Europa. L'Italia, spiega Bruxelles, in un primo tempo non ha notificato alla Commissione la messa al bando dei sacchetti non biodegradabili. In seguito ha violato la direttiva europea per aver mantenuto nel decreto convertito in legge del 2012 la messa al bando delle buste di plastica non biodegradabili. Bruxelles ritiene che la legge italiana non sia ancora in linea con la direttiva europea. La ripresa economica globale ha accusato una nuova battuta d'arresto. Un'ulteriore escalation della crisi dell'area euro e l'avvicinarsi del fiscal cliff negli Stati Uniti sono i maggiori rischi a ribasso e fonte di incertezza politica. Lo afferma il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, sottolineando che la riforma finanziaria deve essere completata per rendere il sistema più sicuro. Una robusta ripresa durerà soltanto se sostenuta da istituzioni e mercati resistenti, mette in evidenza Lagarde, precisando che l'obiettivo è un sistema finanziario sicuro per una crescita sostenibile. Chiusura contrastata per le principali borse europee. Francoforte guadagna lo 0,44%, Parigi lo 0,69%, Milano lo 0,36%. Piatta invece Londra più 0,03% e Madrid meno 0,05%. Chiusura in leggero rialzo per Piazza Affari e per le borse europee, spinte dal dato migliore delle attese sulla crescita degli Stati Uniti. Il PIL del terzo trimestre è salito del 2% grazie all'aumento della spesa pubblica e della spesa per consumi. Così, dopo una mattinata in calo, Milano ha chiuso in territorio positivo con il FTSE MIB a più 0,36% e il FTSE All Share a più 0,38%. Maglia nera del listino Mediaset, meno 3%, che dopo una seduta in colore ha preso con decisione la via del ribasso dopo la notizia della sentenza di condanna di Silvio Berlusconi a 4 anni per frode fiscale nel processo sulle irregolarità nella compravendita dei diritti TV da parte del gruppo. Debole il comparto bancario, che risente di un rialzo dello spread tra BTP e Bund a 340 punti base, mentre gli spunti interessanti sono arrivati dalle trimestrali, con Luxottica che ha festeggiato i conti con 2,5 punti di rialzo, male invece l'Ottomatica che ha perso il 2,6% dopo il giudizio negativo degli analisti del Credit Suisse. Chiara Di Cristofaro, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ha suscitato scalpore la decisione della plenaria del Parlamento europeo di bocciare la candidatura di Yves Mersch nel board della Banca Centrale Europea per protesta contro l'assenza di donne nell'esecutivo della BCE. Con 325 no, 300 sì e 49 astenuti, l'Assemblea ha dato il suo sostegno alla posizione della Commissione economico-finanziaria. Troppe cravatte nel board della Banca Centrale Europea. Per questo il Parlamento europeo ha sollevato una solenne protesta, bocciando la candidatura del banchiere lussemburghese Mersch, un veto simbolico per esprimere il no di Strasburgo all'assenza di donne nell'esecutivo della Banca Centrale Europea. A guidare la protesta una combattiva Sylvie Goulard, 48 anni, deputata francese, che aveva già affrontato apertamente e in italiano Mario Draghi. Vorrei dire a Mario Draghi, non al presidente, a Mario Draghi, un'altra cosa, all'uomo di buon senso. Lei come vede i prossimi 7 anni, essendo il capo di un'istituzione che chiede a tutti in Europa modernizzazione, riforme strutturali, più donne al lavoro, ma lei rimane il capo di un'istituzione del passato, only male. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea ha rinunciato a portare avanti la proposta di regolamento sul Made in perché, dopo 7 anni di discussioni, ha dovuto prendere atto che era diventata sostanzialmente impraticabile a causa dell'impossibilità di raggiungere il necessario consenso da parte di un numero sufficiente di stati componenti. Così John Clancy, portavoce del commissario al commercio Karel de Gucht, ha difeso la decisione di Bruxelles che ha suscitato le proteste di molti europarlamentari italiani. Ora parliamo di televisione, un focus sulla fiction francese, un'importante anteprima di una novità made in Italy. Da domenica fino al 31 ottobre andrà in scena a Roma, in diversi luoghi della capitale, la 26esima edizione di Eurovisioni, Festival Internazionale di Cinema e Televisione. Goethe Institute, Villa Medici e Palazzo Farnese ospiteranno la rassegna dedicata al tema Fiction per l'Europa, mito o realtà. E chiudiamo con il teatro. Atene ha ospitato la prima assoluta dell'opera teatrale Odissei, basata sul capolavoro di Omero, per la regia di Robert Wilson. Si tratta di una coproduzione di Teatro Nazionale di Atene e Piccolo Teatro di Milano. Il direttore del Piccolo, Sergio Escobar, al microfono di Marta Cagnola. Collaborazione importante, sfidiamo non l'incoscienza, ma la necessità, ma non per chiuderci nel mito dell'Europa che è nata con Ulisse, con la Grecia, ma per domandarci insieme cosa sta cambiando nel mondo, perché la risposta alla crescita non è per un PIL che non sia esclusivamente determinato dalle società che determinano, come si dice, le certificazioni, nasce da interrogarsi sul cambiamento. Chi non fa questo è davvero matto, davvero non ha a cuore neanche lo sviluppo economico reale. Ce lo dice Morin, che è tornato dopo il 2004, è tornato qualche settimana fa a raccontarci questo. La complessità ci spaventa, ma l'uscita da un'economia asfittica che si autodistrugge è solo in questo viaggio. Altra alternativa non ce n'è. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Pancieri in studio e Daniele Teruzzi, regia tecnica. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.